Musica Maestro di Armando Turno. Un cordiale saluto ad Armando Turno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. La puntata di oggi la dedichiamo a dei manoscritti, a alcune aste che stanno andando, diciamo così, in programma in questi giorni. E ci sono cose piuttosto notevoli. Pensate, da Sotheby's a Londra, ad esempio, andrà all'asta un autografo non terminato di un Kyrie di Mozart, è il 20 maggio. Da Bolaffi a Milano, il 13 maggio, ci saranno delle lettere inedite della Callas e un carteggio molto importante, autografo di Verdi, con il Conte arriva bene. Poi ascolteremo anche le ragioni di questo carteggio. A Firenze da Gonnelli c'è un manoscritto, ci sono dei manoscritti di Mercadante, e poi c'è un manoscritto dello Stabat Mater di Pergolesi che varie volte abbiamo ascoltato. È il 17 maggio. E di questo parliamo con Laura Nicora, che è qua in studio con noi e che, ricordo, oltre ad essere una filologa musicale, oltre ad essere, diciamo così, un perito tra i più apprezzati per identificare gli autentici e non autentici, insegna al master spettacolo, imprese e società, insegna il corso di storia della musica di Milano Bicocca, dell'Università Milano Bicocca. Buonasera Laura Nicora. Buonasera a voi e grazie dell'invito. Beh, grazie a lei che è qua. E cosa sta succedendo? Qui va all'asta, diciamo così, un tesoro. Cominciamo col Kyrie di Mozart, un manoscritto non terminato del Kyrie di Mozart. Cosa succede? Sì, si tratta di un Kyrie in Do maggiore, è già registrato nel catalogo delle opere di Mozart, registrato con il K166F, ed è stato scritto da un Mozart molto giovane, un Mozart sedicenne, probabilmente nel giugno del 1772, anche se in realtà nel catalogo delle opere di Mozart si trova come datato 1773, ma molto probabilmente questa data non è corretta. Si tratta di una partitura. Sono 5 pagine e 49 battute, e una partitura per 4 voci con accompagnamento di 2 violini, viola, basso, 2 oboi, 2 corni, 2 trombe e timpani. E fa parte delle composizioni non terminate da Mozart, perché Mozart ci lascia nei suoi 35 anni di vita tante composizioni finite, ma alcune invece da terminare. Ecco, professoressa Nicora, una cosa molto importante, perché poi veniamo al pratico, insomma. Che base d'asta ha questo manoscritto non terminato di Mozart? La stima di Sotheby's è di 300.000-500.000 sterline. Del resto, per questa carità, è... che vuol dire in euro una cifra, insomma, uno ci compra un appartamento anche di più, insomma. Certamente, ma del resto si tratta del più importante manoscritto di musica di Mozart che è passato in asta nell'ultimo periodo, per cui effettivamente Sotheby's ha pensato di dare questa stima. Tra l'altro questo manoscritto, come capita anche per tanti altri manoscritti, ha una storia piuttosto curiosa, perché una volta che, dopo la morte di Mozart, la moglie Costanze risistema tutte le carte del marito, e questo Kyrie finisce nella collezione di un grande collezionista viennese vissuto tra la fine del 700 e inizio 800, che era Alois Fuchs. A sua volta Fuchs lo dona a una biblioteca di un monastero benedettino della Bassa Austria, e questa carta rimane in questo monastero per alcuni anni, fino agli anni 30, poi a sua volta viene venduto un paio di volte, finisce nella collezione di un musicista di Monaco di Baviera, il quale però ebreo nel 38 deve scappare da Monaco e fa una cosa molto curiosa: strappa la carta del titolo e la fa viaggiare su una nave, perché lui voleva rifugiarsi in Sud America, e tiene con lui l'autografo. La carta del titolo purtroppo però viene dispersa, perché questa nave viene silurata, e invece l'autografo rimane intatto e lo possiamo avere ancora appunto oggi. Per nostra fortuna, comunque non parliamo più di cifre, perché ho avuto quasi un mancamento qui in regia, erano preoccupati quando ho sentito la cifra 300-500 mila sterline, quindi vuol dire sostanzialmente 400-600 e più mila euro, insomma, qui ho avuto un piccolo mancamento, scusate, volevo far ridere questo perché so un piccolo segreto della signora Nicora: la sua tesi di laurea tanto tanto tempo fa alla scuola di specialità di Cremona fu proprio sulla Scagno in Alba e sulla presenza di Mozart a Milano, ecco, e allora volevamo aggiungere scrivere un sorriso. Mi sembra anche giusto che gli ascoltatori riescano così a immaginare l'incontro tra il piccolo, il giovanissimo Mozart e l'abate Parini, questo signore che doveva essere solenne, e i due proprio non si capiscono, si capiscono per fare l'opera, ma sì, poi ma non si parlano anche poco, forse non lasceranno traccia di sé, un incontro che la storia forse poteva celebrare nel migliore dei modi, e rimane così, ma non importa. Quindi questo Kyrie, non ripetiamo la cifra perché qualcuno magari guidando questa sera, rientrando, potrebbe avere un piccolo sussulto al cuore, del resto è una cifra importantissima, ma però ci sarà chi ovviamente, magari qualche multimiliardario, qualche ricco arabo, qualche ricco, che so io, europeo, americano, a giudicarsi un Mozart così, insomma, importante. Certo, speriamo che vada anche in qualche luogo dove poi possa essere ancora studiato e dagli studiosi, ecco, non finisca in qualche cassetto chiuso e riesca chissà fra quanti secoli poi. È come il galop di Chopin che è chiuso nella cassaforte di Madame Strauss e non vuol mostrarlo, ma questo è un altro problema. Poi c'è un'asta, tra l'altro domani, in questi giorni, no, proprio il 13 maggio. Ecco, da Bolaffi a Milano, con lettere inedite della Callas e invece un carteggio di Verdi molto importante ma noto. Io ricordo che Laura Nicora, che è qua con noi, insegna il master sullo spettacolo, impresa e altro, il corso di storia della musica è tenuto da lei all'Università di Milano Bicocca. Ecco, Laura Nicora, che cosa va all'asta da Bolaffi per questa, diciamo così, tornata, queste lettere autentiche, autografe di Verdi, queste lettere autentiche, autografe della Callas, che cosa c'è? Allora, per quanto riguarda l'asta Bolaffi, che prevede numerosi lotti di libri e di autografi in generale, anche una sezione di cose musicali, tra l'altro l'asta quest'anno sarà battuta al Grand Hotel de Milan a Milano, che è questo famoso albergo, certo, dove è stato ospite tanto tempo Verdi, dove morì Verdi. E dove la Callas ha soggiornato molte volte. Ha soggiornato, certo, albergo aperto nel 1863 per togliere una casa di tolleranza che era lì, in quella sede, e comunque in questo albergo verranno battute all'asta queste lettere di Verdi. Sono circa 80 lettere, quasi tutte autografe, indirizzate a questo nobile suo caro amico che si chiamava Oprandino Arrivabene, nato qualche anno prima di Verdi a Mantova, e si tratta di lettere in questo caso già pubblicate. Sono state infatti pubblicate nel 1931 dall'Alberti in un volume che si intitola Verdi Intimo. Ecco, in questo caso la base d'asta è 150.000 euro. Diciamo che ragionevole questa volta rispetto alla cifra di Mozart, e ci portiamo a casa un pacco di lettere di Verdi. Un pacco di lettere, autentiche. Che però tra l'altro non sono tutte le lettere che Verdi ha scritto ad Arrivabene. Infatti alcune sono già passate all'asta negli anni scorsi da Sotheby's e altre oggi sono conservate alla Yale University, sono state acquistate da Friedrich Koch, il quale ha creato una bella collezione anche di materiale musicale acquistata negli anni 80 all'incirca del Novecento, per cui non troppi anni fa, e queste lettere le ha comprate e oggi sono conservate alla biblioteca di Yale. Ecco, ma che opere riguardano queste lettere? Allora, gli argomenti trattati nelle lettere sono abbastanza variegati, perché Arrivabene, tra l'altro Verdi a lui dava del tu, usa la forma del certo, tu, perché erano proprio grandi amici, si parla di tante cose e si parla anche di musica. Logicamente Verdi con lui non parla di musica come quando parla con un librettista, cioè dando determinate informazioni sul dramma, sui versi, eccetera, ma dà una serie di informazioni su quello che accade ad alcune sue opere. Una di queste è la seconda versione del Macbeth, ad esempio, per cui quando Verdi ritocca il Macbeth per Parigi, aggiungendo nel 1865, aggiungendo tutte quelle caratteristiche che erano care al gusto parigino, tra cui anche i ballabili, piuttosto che informazioni sulla Forza del Destino, sul Don Carlo, su Otello, sulla Ida, sul Requiem, non parla di Falstaff, logicamente, perché l'Arrivabene è già morto quando il Falstaff poi va in scena. Ma cosa possiamo aggiungere? Ma ci sono tante altre informazioni di carattere musicale, perché si parla poi anche di musicisti, si parla di Mariani, di Angelo Mariani, questo direttore d'orchestra che è stato il primo a portare Wagner in Italia nel 1871, poi si parla di Ponchielli, si parla di Boito, si parla delle cantanti canti, delle voci, delle cantanti. E c'è una lettera molto interessante perché si parla della musica strumentale in Italia, e Verdi scrive: è una consolazione il vedere come dappertutto si istituiscano società di quartetti, quartetti orchestra, orchestra e quartetti, per educare il grande pubblico all'arte. Ma a me qualche volta viene un pensiero meschinissimo: ma se invece noi in Italia facessimo un quartetto di voci per eseguire Palestrina e i suoi contemporanei, non sarebbe questa grande arte? E sarebbe arte italiana, l'altra no. Ma zitto, che nessuno mi senta. E questa è proprio una sua considerazione su quella che era la musica strumentale in un'Italia in quel momento così immersa nel melodramma, e per lui non era la musica tedesca, ma era la grande musica italiana ancora del periodo del Rinascimento. E poi c'è un'altra lettera che è molto simpatica, che invece è relativa all'acquisto di una stufa economica, per cui argomento completamente diverso. La stufa economica è una stufa che consumava poca legna o poco carbone, penso. E lui la compra a Parigi, ma gliela bloccano a Torino, e la compra e la fa arrivare attraverso la ferrovia. Certo. E dice: le strade ferrate sono fatte per rompere i coglioni alla povera gente. Mi sono fatto spedire da Parigi una cucina economica e mi hanno bloccato l'invio. Per favore, fa qualcosa, fammela arrivare. Per cui ogni tanto ci sono anche queste lettere così di vita di tutti i giorni. Tra l'altro gli scrive anche: prova la spalletta, la famosa spalletta di maiale, la famosa ricetta che Verdi invia poi anche a Ricordi e alla stessa Teresa Stolz. Evidentemente la fa conoscere anche ad Arriva Bene. Cioè, prova la spalletta e poi fammi sapere com'è. Ecco, tra l'altro è stata citata la Stolz. Ricordiamo che il carteggio della Stolz è ancora inedito, è ancora conservato nel caveau di una banca. Ne abbiamo fatto certo. puntate e altro, ma non abbiamo ancora notizie a questo proposito, perché è un carteggio. Tra l'altro, un carteggio anche più ampio di questo. È un carteggio che è quasi tutto inedito. Oltre 200 lettere. Sono 235 quindi. Lettere circa. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Turno dai microfoni di Radio 24. Questa sera abbiamo con noi in studio Laura Nicora. Ricordo che, oltre a essere un'esperta di autografi, una filologa musicale, insegna al master spettacolo, impresa e società del corso che si tiene all'Università di Milano Bicocca. Lei precisamente insegna storia della musica, ecco, questo lo dico per anche un po' darle le coordinate. Ma noi stiamo parlando di aste, dopo la notizia, la grande notizia di quella che arriva da Londra, da Sotheby's, dove va addirittura all'asta un autografo di Mozart, un Kyrie non terminato. Abbiamo parlato del carteggio tra Verdi e il Conte Arriva Bene, che andrà all'asta dopodomani, il 13 maggio. E nella stessa asta di Bolaffi, che sarà tenuta al Grand Hotel di Milano, dove morì Verdi, dove la Callas scendeva, dove Puccini scendeva, dove insomma tutta la musica è passata, certo, ci saranno anche delle lettere inedite di Maria Callas. Ecco, di che cosa si tratta? Si tratta di 7 lettere autografe, queste appunto inedite, inviate a Elvira de Hidalgo. Elvira de Hidalgo è stata una grandissima soprano spagnola, ha avuto un grandissimo successo e poi a un certo punto decide di ritirarsi e di insegnare, di occuparsi esclusivamente di insegnamento. Insegnerà in Grecia ed insegnerà anche a Milano, al Conservatorio di Milano. Queste lettere sono anche molto lunghe, la prima è datata 1946, per cui inviata da una Callas molto giovane, poco più che ragazzina, e l'ultima è del 69. In questo lotto poi ci sono anche 5 lettere sempre inviate alla Hidalgo, ma scritte dal marito della Callas, Giovanni Battista Meneghini, e l'uomo informa la cantante sui successi della Callas. La Hidalgo, bisogna ricordare che è la prima persona che effettivamente crede in Maria Callas, e questo la Callas non se lo dimenticherà mai. Tra l'altro le due donne si incontrano in Grecia, anche se però bisogna ricordare che Maria Callas non è nata in Grecia, perché nasce a New York da genitori greci e andate a New York per cercare di fare fortuna. Il padre effettivamente riesce a avere una certa fortuna economica, apre anche una farmacia, e soltanto che i genitori si separano, per cui lei a un certo punto segue la madre che torna in Grecia e adolescente ritorna a vivere in, cioè va a vivere in Grecia, rimanendo lontano dal padre e avendo con la madre tra l'altro un rapporto molto difficoltoso, e proprio ad Atene incontra la Hidalgo che diventa la sua insegnante di canto, ma in qualche modo diventa un po' anche una sua seconda mamma, e questo è importante anche proprio per il contenuto di queste lettere. Tra l'altro la Callas in quel periodo non era particolarmente bella, oggi la si potrebbe definire non solo robusta ma anche effettivamente un po' grassa, era anche miope e probabilmente non era anche molto, molto felice, e aveva questa voce molto importante, molto da sistemare, però da mettere a posto, da affinare. E la Hidalgo la segue con grande attenzione e cerca di farle fare tutti quegli esercizi che avrebbe fatto fare per formare un soprano d'agilità, in maniera tale da rendere questa voce più raffinata. Infatti la fa studiare facendole fare trilli, picchiettati, scale, arpeggi, eccetera, e effettivamente esce fuori poi la voce della grande Callas. Le dà molta fiducia e lei comincia, proprio per cercare di farsi le ossa, come del resto si deve fare, a cantare un po' dappertutto. Comincia a cantare al conservatorio di Atene, canta Puccini, canta Tosca, canta Suor Angelica, canta nell'operetta, canta anche musica sacra. Canta nello Stabat Mater di Pergolesi, ma canta anche musica greca e opera tedesca, per cui cerca di cantare un po' a 360 gradi proprio per farsi le ossa. Però poi a un certo punto decide che la Grecia le va stretta e allora decide di tornare a New York. Qui fa un'audizione al Metropolitan che però non va bene assolutamente, per cui rimane un po' delusa, ma nel frattempo conosce il basso Nicola Rossi Lemeni, che l'aiuta in questo ingaggio per la Gioconda di Ponchielli in Italia, per cui viene in Italia all'Arena di Verona e qui comincia la sua fortuna in questa Gioconda diretta da Tullio Serafin, direttore che poi la dirigerà molte altre volte. E a Verona tra l'altro conoscerà quello che poi diventerà suo marito, insomma, Meneghini, l'industriale, che il grande industriale, certo, si dedicherà, sì, a lei, certo, insomma, ecco, nel bene e nel male, insomma. Ecco, ma allora proviamo ad ascoltare un momento della voce della Callas. È stata citata un'opera, ma diciamo così che in queste lettere è coinvolta anche la sua interpretazione di Carmen. Poi... Beh, certo, anche perché la Callas ha una voce naturale straordinaria, perché riesce a eseguire una parte come la Norma di Bellini, però a fare anche una parte come Carmen, che è un mezzo soprano, non è un soprano, per cui questa è effettivamente, al di là dello studio, degli anni di studio, grazie anche all'aiuto della Hidalgo, ma è una dote naturale. Ecco, Laura Nicora, cosa possiamo aggiungere poi a queste lettere che scrive la sua maestra Maria Callas? Ci sono delle notizie particolari, delle cose ghiotte? Ma lei confida, anzitutto bisogna ricordare che queste lettere, rispetto a tante altre che ha scritto Maria Callas, e ricordiamo anche che tante sono state scritte dal marito, firmate poi Maria Callas, rispetto a tante altre sono lettere più genuine, più sincere. Non deve mettersi una maschera di fronte alla Hidalgo Maria Callas, è effettivamente se stessa, per cui questa è anche un po' una delle particolarità positive di queste lettere. E lei parla di vari argomenti, soprattutto parla di musica, parla di Serafin, parla di un altro grande direttore d'orchestra con cui lavorerà molto anche alla Scala, che è Victor de Sabata, e parla delle sue paure, delle sue ansie, ma anche delle sue soddisfazioni per i suoi tanti successi. E in una lettera chiede anche di essere aiutata per ricordare dei momenti della sua infanzia e giovinezza riferiti alla sua dal punto di vista lavorativo, proprio per cercare di creare una biografia di Maria Callas con informazioni corrette. Questo non lo chiede alla madre, lo chiede alla Hidalgo, per cui effettivamente queste lettere, che tra l'altro anni fa mi era capitato di leggere, e ripeto, alcune sono anche molto lunghe, molto molto lunghe, sono veramente veramente interessanti. Ecco, ecco, vanno all'asta e qui non diciamo la cifra, ma comunque una cifra importante, 10.000 euro di base d'asta, sì. Non è una cifra, diciamo così, esagerata come le altre. Ma però credo che Mozart sia effettivamente l'autore più irraggiungibile. È contagioso, contagioso. Sì. Bene, ricordo anche, prima di parlare dell'asta di Firenze, un avvenimento di domani sera alla Scala di Milano, perché c'è una serata in occasione dei 150 anni della Croce Rossa Italiana e la Filarmonica della Scala, sotto la bacchetta di Daniele Gatti, eseguirà la Sinfonia numero 4 e la Sinfonia numero 7 di Ludwig van Beethoven. Quindi un appuntamento domani sera per la Croce Rossa Italiana alla Scala per i 150 anni con Daniele Gatti e l'Orchestra Filarmonica. È un annuncio che desideriamo fare proprio anche per rendere un omaggio alla Croce Rossa Italiana e nello stesso tempo a Gatti e a Beethoven e all'Orchestra della Filarmonica. Ma riprendendo il discorso con Laura Nicora e con queste sue carte, queste, diciamo così, questi manoscritti, queste cose che andranno all'asta Firenze, c'è un mercadante, ma c'è anche uno Stabat Mater di Pergolesi. Sì, all'asta di Firenze, che il materiale andrà all'incanto il 17 maggio, sono in totale le cose musicali circa 60 lotti con materiale vario, anche un po' per tutte le tasche effettivamente e un po' per tutti i gusti. Ci sono da fotografie autografate, la stessa Maria Callas piuttosto che Stravinsky, Rossini, lettere autografe di varia lunghezza da Liszt a Gounod, Milhaud, piuttosto che autori italiani come Alfano, Tosti. Abbiamo poi dei testi di teoria musicale stampati in Italia e in Francia dall'inizio del 600 fino all'800. Abbiamo la curiosa edizione del Teatro alla Moda di Benedetto Marcello, questa celebre opera satirica scritta in forma anonima, però in realtà da Benedetto Marcello, è stampata a Venezia nel 1720, che è proprio un'opera satirica contro il malcostume del teatro musicale e un po' anche contro lo stesso Antonio Vivaldi, altro compositore veneziano. E poi ci sono alcuni manoscritti che contengono delle composizioni di autori che hanno lavorato nel Conservatorio di Milano, che era appena nato nel 1808, e anche erano strumentisti nel frattempo al Teatro alla Scala. Sono dei compositori che oggi sono un po' meno ricordati, come Bonifacio Asioli, che poi è stato anche direttore del Conservatorio di Milano, piuttosto che Pietro Rai o Isidoro Piantanida, ma all'epoca erano tutti personaggi molto importanti, non soltanto nel panorama musicale milanese ma italiano. Tornando ai manoscritti di Mercadante, invece c'è questa raccolta di manoscritti, partiture e parti di musica per fanfare e per banda. E si tratta di carte scritte a Napoli verso la metà del 1800, e certo la musica per banda e fanfara non nasce a Napoli in quel periodo, perché ha delle origini molto più antiche, addirittura sulla colonna Traiana ci sono degli esempi di musica per fanfara, piuttosto che nel 1300 la fanfara veniva utilizzata per la caccia, o nel 1500 ci sono le prime fanfare per battaglia. Nel 700 ogni esercito aveva la propria fanfara proprio per tenere il passo dei soldati, e poi nell'800 anche in Italia si aumenta questa produzione di musica per fanfara e per banda. Ricordiamo, la musica per fanfara è musica per ottoni con percussioni, la musica per banda aggiunge anche i legni, ecco, certo. Questa è la differenza tra la fanfara e la banda, e la caratteristica di queste carte che contengono anche musica di mercadante è che ci sono delle parti, non soltanto le partiture, che venivano sistemate sugli strumenti, sono molto piccole, meno di un palmo, e tra l'altro oggi da trovare sono anche in generale abbastanza difficoltose, perché proprio perché venivano sistemate sullo strumento ed erano così piccole, spesso se pioveva si rovinavano oppure venivano trattate in maniera un pochino più sommaria, e oggi trovarle effettivamente è abbastanza raro. Passiamo a Pergolesi. Questo Stabat Mater è un manoscritto? È un manoscritto compilato tra la fine del 700 e inizio 800, per cui qualche anno dopo che Pergolesi scrive questo suo capolavoro, che è una delle ultime cose che scrive Pergolesi. Anche Pergolesi, come Mozart, ha una vita molto breve, molto molto breve, e tra l'altro il suo cognome non è Pergolesi, lui si chiamava Draghi originariamente. Certo. E questa appunto è una delle sue ultime composizioni, una composizione del 35, che scrive appunto poco prima della morte, ed è una sequenza, come sappiamo lo Stabat Mater è una sequenza, ed è stata composta musicata da tanti altri compositori come Rossini piuttosto che Mozart, Orlando di Lasso, eccetera. E anche Pergolesi ha voluto lasciare il suo contributo in questo capolavoro. Aggiungiamo le ultime notizie con Laura Nicora. Nell'ascoltare questo brano si rimane veramente senza parole, anche perché è come quando si ascolta il Requiem di Mozart, due compositori così giovani, e si capisce che hanno una maturità tale che non sembra possibile in un'età, in così pochi anni effettivamente, per cui è una cosa straordinaria. Bene, quindi questa Asta di Gonnelli propone... Per quanto riguarda l'Asta di Gonnelli propone anche questo manoscritto che contiene in partitura tutto lo Stabat Mater, quindi questa composizione è composta per Napoli da Pergolesi, da questo giovane Pergolesi nel 1735. Il tempo è finito, purtroppo è volato questa sera tra un'asta, un annuncio, una cifra che ci ha fatto un po' tremare il cuore, ma insomma c'è stato tutto questa sera. Ringrazio Laura Nicora e ringrazio voi cari ascoltatori. Vi do appuntamento come sempre domenica prossima alle 21. Un cordiale saluto da Armando Torno e da Laura Nicora. Buonasera.